Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Caso Ruby Napolitano, un giusto processo già garantito dalla legge, interviene anche il Papa. L'ex governatore della Sicilia, Salvatore Cuffaro, non può essere accusato di favoreggiamento. La difesa chiede la pena va ridotta. Federalismo, Calderoli apre i comuni, scegliamo la via del dialogo. No ad aule troppo affollate nelle scuole, accolta la prima class action contro la pubblica amministrazione. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Ieri il CEI, oggi il Papa. Il Vaticano interviene duramente nelle vicende italiane riferendosi al caso Ruby. Poco fa ha parlato anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Parole che arrivano nel giorno in cui si attende sul fronte giudiziario la comunicazione con cui la difesa di Silvio Berlusconi spiegherà che il Presidente del Consiglio non si sottoporrà ad interrogatorio perché i PM milanesi, dicono i suoi legali, non sono competenti ad indagare sulla vicenda. Ma dice intanto ci sono state prese di posizioni importanti e allora cominciamo da qui, Elisabetta Fiorito. Sì, dopo il segretario di Stato Tarcisio Bertone arriva anche il monito di Benedetto XVI sulla moralità. Il Papa denuncia il senso di insicurezza dovuto in primo luogo alla precarietà sociale ed economica acuita anche da un certo indebolimento della percezione dei principi etici e degli atteggiamenti morali personali. La società e le istituzioni devono ritrovare le loro radici morali, dice il Papa. Le nuove sfide che si affacciano all'orizzonte esigono che Dio e uomo ritrovino la loro anima, le loro radici spirituali per dare una nuova consistenza ai valori etici e giuridici in riferimento e all'azione pratica. E sulla moralità continua ad intervenire anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Sentiamo cosa ha detto il Presidente della Repubblica. Nella Costituzione e nella legge possono trovarsi i riferimenti di principio e i canali normativi e procedurali per far valere insieme le ragioni della legalità nel loro necessario rigore e le garanzie del giusto processo. Fuori di questo quadro ci sono solo le tentazioni di conflitti istituzionali e di strappi mediatici che non possono condurre per nessuno a conclusioni di verità e di giustizia. Spero e confido che di ciò ci si renda conto sempre più diffusamente da ogni parte e al di là delle diverse appartenenze politiche. Grazie. E da parte della maggioranza il capogruppo PDL Fabrizio Cicchitto nega che ci sia un asse Vaticano-Quirinale e afferma non c'è nessuna risposta da dare alla Chiesa perché sono parole che condividiamo. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Così a Roma, intanto a Milano sul fronte giudiziario si attende, dicevamo, il documento dei legali della difesa, ma intanto la escort emiliana Nadia Macri è da circa un'ora negli uffici della Polizia Giudiziaria di Milano per essere interrogata. Ieri sera in un'intervista ad Anno Zero aveva raccontato i rapporti con il Premier. Abbiamo fatto il bagno in piscina con l'acqua calda e dopo ci raggiunse il Presidente, nudo. E voi quanti eravate? Eravamo in 5-6 ragazze, 5-6, fai anche 7. Lui nudo? Lui entrò nudo, già pronto. Poi lui dopo un po' si avvicinò a un'altra camera e dopo un po' lui disse allora avanti la prossima e ogni 5 minuti entravamo, aprivamo la porta e consumavamo il rapporto sessuale, così. E quando fu pagata? La seconda volta, diciamo? Sempre 5.000 euro. E ieri sera è stato un record di ascolti per Anno Zero con la puntata dedicata al caso Ruby. Ha registrato lo share più alto della stagione, il 24,63%, pari a 6.557.000 spettatori. Intanto, dicevamo, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato oggi alla giornata dell'informazione al Quirinale, ha parlato sempre nella stessa sede anche il Presidente della RAI Paolo Garimberti. C'è da parte mia, ha detto, il massimo rispetto per l'autonomia e la libertà del direttore del TG1, ma la regola a cui non si può derogare è il rispetto della correttezza e della completezza dell'informazione. Così Garimberti ad una domanda proprio sul caso Ruby. Voltiamo pagina, restiamo però alla politica. Dialogo, dice la Lega, sul fronte del federalismo. In Consiglio dei Ministri questa mattina si è deciso di aprire alle istanze dei comuni. E così Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è proprio così. Il governo prende tempo e sceglie la linea morbida nei confronti degli enti locali. Palazzo Chigi nella riunione di questa mattina ha deciso infatti il rinvio di una settimana del termine per il voto del parere sul decreto sul fisco comunale che doveva essere esaminato nella commissione bicamerale entro il 28 gennaio. Una decisione questa, ha spiegato in mattinata il ministro per la semplificazione Calderoli, presa collegialmente con il ministro dell'economia Tremonti e il presidente della bicamerale La Loggia. Una mano tesa, secondo Calderoli, ai comuni che ieri avevano detto no al piano, ma sentiamo il ministro. Abbiamo concordato con loro una serie di risposte positive ai loro quesiti e ritengo che si sia ricomposta la posizione del governo rispetto all'ANCI e vi sia una sostanziale condivisione delle richieste che ci sono state formulate. I commenti politici, l'atteggiamento del governo è del tutto costruttivo e aperto, commenta dal PDL Cicchitto, critico il terzo polo che giudica insufficienti i 7 giorni in più concessi dal governo, dall'ANCI. Chiamparino dice il rinvio è una decisione saggia, aspettiamo ora risposte concrete. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta, siamo alla vicenda Cuffaro approdata in Cassazione. Per la Procura Generale della Cassazione, l'ex governatore della Sicilia, Salvatore Cuffaro, non può essere accusato di favoreggiamento aggravato di Cosa Nostra perché manca la prova che abbia voluto favorire il sodalizio mafioso. Lo ha detto pochi minuti fa il procuratore generale Giovanni Galati nella sua requisitoria che è tuttora in corso. Salvatore Totò Cuffaro, attuale senatore del PID, lo ricordiamo, è stato condannato a 5 anni di reclusione nell'ambito del processo alle cosiddette talpe della direzione distrettuale antimafia di Palermo per avere rivelato notizie coperte dal segreto istruttorio. E in secondo grado gli era stata applicata anche l'aggravante di aver agevolato la mafia. La condanna era salita a 7 anni. La sentenza della Cassazione potrebbe annullare la precedente condanna e quindi Cuffaro verrebbe assolto oppure confermarla e a quel punto sarebbe arrestato, poiché decadrebbe dall'incarico di senatore che in questo momento gli garantisce l'immunità parlamentare. Terza ipotesi, annullamento con rinvio e processo da rifare. La decisione è attesa nelle prossime ore. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto in Liguria si scioglie un comune per 'Ndrangheta. A giugno l'arretrata con l'arresto di alcuni presunti capi cosca dell'Ndrangheta. Le intercettazioni avevano svelato i loro contatti con esponenti dell'amministrazione comunale, ipotizzando scambi di favori e di voti. Per questo i carabinieri avevano subito chiesto al prefetto di Imperia lo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera per infiltrazioni mafiose. È stata così nominata una commissione che la scorsa settimana ha chiuso l'istruttoria e oggi il prefetto di Imperia, di Menna, ha inviato la relazione conclusiva al ministro degli interni, Maroni. Spetterà quindi a lui sciogliere o meno il consiglio comunale. Se accadesse sarebbe la prima volta in Liguria, conferma inequivocabile della presenza della criminalità organizzata in una terra apparentemente immune da queste contaminazioni. Da mesi a Bordighera 3 consiglieri comunali di opposizione girano sotto la tutela della questura dopo una serie di intimidazioni e 10 giorni fa 2 calabresi, padre e figlio, erano stati arrestati con una pistola. Nelle intercettazioni si erano detti pronti ad usarla contro i carabinieri per impartirgli una lezione. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. 3 milioni di euro per la morte di una bambina di 10 anni, sua paziente, causata da un errore di diagnosi della sua sostituta che non riconobbe una peritonite. Così ha deciso oggi, ha deciso il Tribunale di Firenze. Anche se era assente per ferie e aveva il telefono staccato, una pediatra dovrà pagare. Parliamo ora del censimento 2011 perché si prospetta una novità in qualche modo storica. Tra le nuove caselle per il censimento 2011 ce ne sarà infatti una per le coppie omosessuali. In sostanza, chi vorrà definirsi coppia convivente dello stesso sesso potrà farlo. Giuseppe Stassi, dirigente del servizio censimenti dell'Istat, al microfono di Roberta Pellegatta. C'è la volontà di fotografare una realtà che esiste, c'è la volontà di avere un quesito che sia il più chiaro possibile, di modo tale che non ci siano anche equivoci nella compilazione. Adesso noi stiamo andando avanti e saremo, chiaramente potremo essere più definitivi, se mi passa questa ridondanza, nel momento in cui il garante avrà espresso il suo parere. Ne sappiamo la tempistica? No, su questo non la posso aiutare. Quali sono le altre principali novità del censimento 2011? La principale novità è quella che sarà un censimento assistito da lista. Questa lista viene tratta dalle anagrafe di tutti i comuni italiani, servirà per mettere in campo la seconda novità del censimento, è l'invio diretto alle famiglie del questionario di rilevazione. Terza novità, mentre nel 2001 il questionario veniva solo consegnato ma anche ritirato dal rilevatore comunale, nel 2011 le famiglie potranno innanzitutto compilare il questionario online. Il questionario potrà essere altresì restituito presso una rete di punti di restituzione in alternativa presso il comune. Roma ha davvero rinunciato al suo Gran Premio, una conferenza stampa in corso in questi minuti. Allora sentiamo che succede da Andrea Viali. Sì, Anna, tramonta, è ufficiale l'ipotesi di un Gran Premio a Roma e lo ha confermato poco fa proprio lo stesso sindaco della capitale Alemanno, e il suo, diciamo, è stato un annuncio in qualche modo atteso, vista la lettera con la quale alcuni giorni fa il patron della Formula 1, Bernie Eccleston, aveva detto in sostanza che in Italia non si possono correre due Gran Premi, quindi quello di Roma poteva essere un'alternativa a quello storico di Monza. Per evitare rivalità, Roma ha deciso di fare un passo indietro, come peraltro aveva sempre assicurato. Alemanno ha comunque difeso questo progetto, il progetto di un Gran Premio che prevedeva, lo ricordiamo, un circuito cittadino nelle vie dell'Eur. Rinunciato a questo Gran Premio, il sindaco ha però chiesto un maggiore sostegno alle istituzioni nazionali, a partire dal Parlamento ma anche al Governo, per la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020. Per ora dal Campidoglio, Anna, è tutto. Le 13:15, le notizie di oggi di GR24, caso Ruby Napolitano, un giusto processo già garantito dalla legge, interviene anche il Papa che dice le istituzioni ritrovino le radici morali. Nadia Macri intanto sotto interrogatorio a Milano. L'ex governatore della Sicilia, Salvatore Cuffaro, non può essere accusato di favoreggiamento a Cosa Nostra, così il procuratore generale di Cassazione. Alemanno getta la spugna, addio definitivo al Gran Premio di Roma. Al-Qaeda minaccia la Francia, a Roma l'ultimo saluto all'Alpino caduto martedì. E riprendiamo proprio da quest'ultima notizia, ma riprendiamo con una notizia dell'ultima ora arrivata in questo istante. Si parla di un ordigno scagliato contro i militari italiani in Afghanistan proprio questa mattina. Non ci sarebbe, queste le notizie, nessun ferito. Intanto un nuovo messaggio registrato è stato diffuso dalla TV Al Jazeera. Il capo di Al-Qaeda, Osama Bin Laden, lega in questo messaggio la liberazione di ostaggi francesi al ritiro di Parigi dall'Afghanistan e avverte: le posizioni del presidente Nicolas Sarkozy costeranno care alla Francia. Nessun ritiro, ha fatto sapere poco fa Parigi. Ma intanto a Roma è stata la mattina dei funerali dell'alpino morto in Afghanistan. Il dolore più straziante è quello negli occhi di Daniela, giovane moglie di Luca Sanna da appena 4 mesi. Piangendo, depone una rosa sul feretro avvolto dal tricolore. Il capo dello Stato, commosso, le carezza il capo per consolarla. La chiesa è gremita, ci sono le più alte cariche dello Stato, assente il premier Berlusconi, ci sono tutte le divise militari e tanti cittadini comuni. Fotogrammi di un rito purtroppo già visto. Luca Sanna è la 36esima vittima militare in Afghanistan. Lo ricorda così Monsignor Vincenzo Pelvi nella sua omelia. E il nostro Luca in Afghanistan intendeva, come tutti i nostri soldati, essere una presenza amica, desiderosa di favorire uno scambio di doni tra persone semplici, umiliate, minacciate, in un conflitto in cui nessuno chiede il loro parere, salvo imporre loro di soffrire e pagarne le atroci conseguenze. Un lungo applauso saluta la bara portata a spalla dai 6 commilitoni, mentre un picchetto interforze gli rende gli onori. Nel pomeriggio, esequo in forma privata a Samugheo, in provincia di Oristano, paese d'origine dell'alpino. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Meno convegni, più forza ai territori, apertura ai contratti aziendali, è l'ora di riformare Confindustria, parola della Presidente degli Industriali Marcegaglia, che in un'intervista al Corriere della Sera spiega come quello di rendere la Confederazione più snella ed efficiente sia stato fin da subito il suo obiettivo. Non penso solo di tagliare i costi, sottolinea Marcegaglia, ma di decidere che mestiere vogliamo fare in futuro e quali servizi offrire alle imprese. E in queste ore scade intanto un termine importante per i lavoratori precari. A poco più di due giorni dalla scadenza stabilita dalla legge, cresce il numero dei ricorsi presentati dai precari che hanno deciso di impugnare i loro contratti a termine. Il dato emerge dalle stime per ora parziali di diverse organizzazioni CGIL in testa, che stanno assistendo i lavoratori. Potrebbe essere dunque un boom di domande ai magistrati l'effetto paradossale del collegato al lavoro, che intendeva porre uno stop a possibili ricorsi. La norma fissa infatti in 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il tempo entro il quale è possibile impugnare il proprio contratto a tempo determinato, e il termine scade appunto domenica 23 gennaio. La CGIL parla di una montagna di contratti già impugnati. Per il solo settore della scuola, la FLC indica un dato di oltre 20.000, a cui si aggiungono altri 17.000 avviati dal Codacons. Il sindacato di Corso Italia contesta anche la legittimità costituzionale del termine fissato dalla legge, mentre già un'altra disposizione del collegato è oggetto di ricorso alla Consulta. Il Tribunale di Trani ha infatti deciso di sollevare la questione di costituzionalità per la disposizione che prevede la forfettizzazione del risarcimento al lavoratore assunto illecitamente con un contratto a tempo. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra i tanti precari che si stanno organizzando ci sono quelli della scuola. Il Codacons sta preparando una class action. La CGIL invece ha lanciato l'operazione 100.000, un'azione collettiva che vedrebbe in realtà impegnati circa 80.000 docenti e 50.000 del personale ATA. Roberto Felloni, coordinatore precari della CGIL a Ferrara, lui stesso precario della scuola, al microfono di Maria Piera Ceci. Ovviamente la pressione che ci sarà sarà una pressione politica, perché lei insomma tenga conto che arriveranno 100.000 raccomandate al MIUR, 100.000 raccomandate agli uffici scolastici provinciali, 100.000 raccomandate agli uffici scolastici regionali. Tutte le sezioni dei tribunali, quindi i giudici ordinari, saranno oberati dai ricorsi, quindi lei capisce che si tratta comunque di un'azione che è principalmente politica, perché qui si tratta comunque di fare una pressione e cercare quindi di smuovere non solamente praticamente l'opinione pubblica, ma anche qualche politico che se ha le orecchie fine capisce che su questo terreno è un terreno fertile, insomma, per poter far politica. E una sentenza per la scuola intanto questa mattina è arrivata ed è un no a classi troppo affollate. Entro 120 giorni il Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia dovranno emanare il piano generale di edilizia scolastica. L'ordine arriva dal TAR del Lazio, che ha accolto una class action proposta dal Codacons contro quelle aule scolastiche nelle quali il numero degli alunni supera i 25 fissati dalla legge. Soldi agli studenti più bravi, siete d'accordo? Questo era il nostro sondaggio intanto di questa mattina, che partiva dall'iniziativa lanciata da una scuola milanese che darà 150 euro a chi nel primo quadrimestre avrà la media dell'8. Il risultato, i sì dei nostri ascoltatori sono stati il 57%, il no il 43%, e noi torneremo a parlare anche tra poco di scuola con Italia in controluce. Nel frattempo siamo alla cronaca. Non hanno subito alcuna violenza le due sedicenne di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, scomparse lunedì scorso e trovate ieri sera a Roma. Piangevano ed erano in stato confusionale, avevano qualche scoriazione ai polsi e una di loro era senza scarpe. Questo il racconto dei due passanti che ieri sera hanno ritrovato Agnese e Serena nel quartiere di Centocelle, alla periferia di Roma. L'intervento dei carabinieri del 118, il timore che avessero subito abusi. Ma quella delle due sedicenni di Correggio sarebbe stata tutta una messa in scena. Le ragazze, per la cui scomparsa lunedì scorso nella cittadina emiliana si era temuto un nuovo caso Yara o peggio ancora Sara, erano state avvistate per l'ultima volta in un centro commerciale di Reggio Emilia. I carabinieri le hanno viste nelle registrazioni delle telecamere di sorveglianza uscire con vestiti diversi da quelli con cui erano entrate. Da quel momento, cellulari spenti, una tappa alla stazione di Milano e poi il viaggio per la capitale. I medici che le hanno visitate non hanno riscontrato alcun abuso. Domani Agnese e Serena torneranno a casa con i propri genitori. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La decisione era attesa, ve l'abbiamo anticipato anche noi, ora però ufficiale con una breve comunicazione via fax. I difensori di Silvio Berlusconi, Nicolò Chedini e Piero Longo hanno fatto sapere poco fa al procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati che il Presidente del Consiglio non si presenterà domani all'interrogatorio, la cui data era stata fissata con un invito a comparire per le accuse di concussione e favoreggiamento della prostituzione minorile. I difensori nella comunicazione spiegano di ritenere la Procura di Milano non competente ad indagare, come già preannunciato. E allora torniamo alla cronaca. Controlli della Guardia di Finanza sui saldi nelle grandi città. Le Fiamme Gialle hanno esaminato in questi giorni oltre 60 negozi di Roma, Milano e Napoli in cerca di irregolarità sui prezzi. Cosa è emerso? Che un negozio su quattro ha gonfiato i prezzi esposti sui cartellini per raggirare i clienti sugli sconti. Il comandante del nucleo speciale tutela mercati, Vincenzo Vellucci. controlli regolari hanno evidenziato sostanzialmente una errata indicazione nel prezzo iniziale sui cartellini di vendita, per cui i commercianti trovati in fallo hanno indicato nel prezzo, nel cartellino esposto, un prezzo iniziale superiore a quello che noi avevamo rilevato in un periodo precedente l'inizio dei saldi, per cui dopo l'applicazione della percentuale di sconto pubblicizzata, molte volte ci siamo trovati addirittura con un prezzo in saldo superiore al prezzo che era praticato prima del saldo. Per quanto riguarda i saldi, può essere utile il consiglio di rivolgerci a quei negozi per i quali magari abbiamo già fatto un previo sopralluogo prima dell'inizio della stagione dei saldi, così che dopo aver individuato l'oggetto che ci interessa sappiamo se il prezzo che viene esposto in cartellino è quello corretto o meno. Resta, vi ricordiamo, l'allerta neve in queste ore. Sono previste nevicate su Emilia Romagna, Marche e Toscana fino a quote di pianura. Fino al 20 febbraio i musei Mazzucchelli a Cili Verghe di Mazzano in provincia di Brescia ospitano la mostra Il Teatro alla Moda, che espone le creazioni per teatro, opera e danza dei più grandi stilisti italiani, da Fendi a Missoni, da Armani a Valentino, Versace, solo per citarne alcuni. Curatore della rassegna Massimiliano Cappella, al microfono di Adriana Fracchia. Sono 100 costumi, pezzi unici, cuciti, dipinti a mano e creati per le più importanti star del palcoscenico, quindi Luciano Pavarotti, Raina Cabaivanska, Benchirite Canavo, Carla Fracci, Luciana Savignano, questi sono solo alcuni dei nomi più importanti che hanno avuto la fortuna di poter indossare queste meravigliose creazioni. Lo scrittore austriaco Hans Kruger non è in pericolo di vita dopo l'intervento alla testa di 2 ore in cui è stato sottoposto a Innsbruck. Le sue condizioni restano comunque molto gravi, così hanno detto i medici che stamani hanno tenuto una conferenza stampa. Ieri ve l'abbiamo raccontata, la tremenda caduta a Kitzbühel. E intanto a Kitzbühel questa mattina si è corso il super gigante maschile a vincere il croato Ivica Kostelic. Dan Peterson, una leggenda del basket, a lui dedicheremo un doppio appuntamento con i reportage di Radio 24, domani sabato alle 8.15, poi domenica alla stessa ora. Carlo Genta ha seguito gli allenamenti dell'Armani per affrontare il grande viaggio che l'ha riportato sulla panchina dell'Olimpia, e allora questa è una piccola anteprima. Senti, ma dimmi la verità, è vero che ti ha chiesto di allenare il Milan? Devo chiarire questo, perché nell'87 non c'è stata una richiesta formale, c'è stato, diciamo, un mini sondaggio portato avanti da Bruno Bogorelli, perché era lui era direttore programmazione sportiva le reti Fininvest e anche direttore di news di Fininvest, e Milan stava cambiando allenatore, poi ovviamente hanno preso Sacchi, però io sono stato lì, ho detto a gennaio mi hanno parlato di questo, no, io faccio tutte le cose a bocce ferme e poi non voglio rovinare questa mia squadra, che se abbiamo 3 traguardi poi fortunatamente li abbiamo centrati tutti. Detto, se mi volete parlo fino all'anno, bocce ferme, vi parlo. Non hanno potuto aspettare, per questo Sacchi, infatti vedo Galliani ogni tanto, sono anni che non vedo Silvio Berlusconi, 20 anni forse, e dico sempre a Galliani: Adriano, avete sbagliato tutto, avete preso Sacchi, che poi ha vinto tutto Sacchi, no? E Galliani, molto gentile, dice sempre: caro Dan, anche con lei avremmo fatto gli stessi risultati. Non è vero, però mi fa piacere. Le 13:27 minuti, 40 secondi in questo istante. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24 vi aspetta alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.